Il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai, nel secondo anno dalla loro uscita dalla terra d'Egitto, nel primo mese, e gli disse: «I figli di Israele facciano la Pasqua a suo tempo, il 14 di questo mese, tra le due sere. La farete nel suo tempo, la farete con tutte le prescrizioni e usanze». Mosè ordinò ai figli di Israele di celebrare la Pasqua. Essi fecero la Pasqua nel primo mese, il 14 del mese, tra le due sere, nel deserto del Sinai. Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, così fecero i figli di Israele. Or alcuni uomini, presi impuri da cadavere, che non poterono fare la Pasqua in quel giorno, si presentarono in quel giorno a Mosè e ad Aronne, e dissero loro: «Siamo impuri per un cadavere. Perché ci è proibito di presentare il dono al Signore nel suo tempo, in mezzo ai figli di Israele?» Mosè rispose: «Restate, voglio sentire che cosa ordinerà il Signore in proposito». Il Signore rispose a Mosè: «Parla ai figli di Israele dicendo: chiunque tra voi o i vostri parenti, impuro da cadavere o in un viaggio lontano, celebrerà la Pasqua per il Signore, la celebrerà nel secondo mese, il 14, tra le due sere, e mangerà azimi ed erbe amare. Non ne avanzerà fino al mattino, né romperà alcun osso. La farà secondo tutte le prescrizioni della Pasqua. Ma chi era puro, non era in cammino e mancò di fare la Pasqua, quell'individuo sarà eliminato dal suo popolo, perché non presentò il dono del Signore a suo tempo. Egli porterà il suo peccato. Se uno straniero abiterà con voi e celebrerà la Pasqua del Signore, seguirà la prescrizione della Pasqua e la sua usanza. Ci sia per voi una prescrizione unica, per l'ospite e l'indigeno del paese. Nel giorno in cui si eresse la dimora, una nuvola coprì la dimora, cioè la tenda della testimonianza, mentre alla sera c'era sulla dimora come un'apparizione di fuoco fino al mattino. Così era sempre. La nuvola copriva la dimora e di notte aveva l'aspetto di fuoco. Quando la nuvola si alzava dalla tenda, i figli di Israele partivano e nel luogo dove si posava la nuvola, i figli di Israele si fermavano. All'ordine del Signore, i figli di Israele partivano. All'ordine del Signore, si fermavano. E rimanevano accampati finché la nuvola restava sulla dimora. Se la nuvola si attardava per molti giorni sulla dimora, i figli di Israele mantenevano l'osservanza del Signore e non partivano. Se la nuvola rimaneva pochi giorni sulla dimora, secondo la parola del Signore si fermavano e secondo la parola del Signore partivano. Se c'era la nuvola dalla sera al mattino, e al mattino si alzava, allora partivano, o se si alzava dopo un giorno e una notte, allora partivano. Se per due giorni, un mese o un anno la nuvola prolungava la sua permanenza sulla dimora, i figli di Israele restavano e non partivano. Si fermavano secondo la parola del Signore e, secondo la parola di Lui, partivano. Osservavano le prescrizioni del Signore, secondo quanto egli aveva ordinato per mezzo di Mosè.